punto, punto, punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Cari ascoltatori, un buongiorno a tutti voi. Dunque, l'ultimo giorno del mese, l'ultimo sabato evidentemente del mese, l'appuntamento con Punto a Capo. Un saluto da Gigi Donelli, da Pietro Lacorte in regia. Iniziamo da una memoria tragica che si lega a questa settimana. Un uomo, Giuseppe C., si dà fuoco a Bologna di fronte a un ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Sentiamo subito il servizio, poi torniamo a parlarne. Sale il bollettino delle vittime della crisi. La perdita di dignità che consegue all'impossibilità di trovare un posto di lavoro o di far fronte a debiti e tasse porta sempre più spesso a gesti estremi. Ieri un nuovo caso, emblematico. Un uomo di 58 anni, un muratore artigiano, si è dato fuoco davanti ad una sede dell'Agenzia delle Entrate di Bologna. Ai soccorritori è riuscito a dire: «Ho tentato di uccidermi, voglio morire». Il perché è spiegato non solo dalla scelta del luogo, ma anche dai resti di alcune lettere ritrovate vicino a lui, una indirizzata proprio all'Agenzia Tributaria. Le tasse lo sempre pagate, si legge. Vi chiedo scusa, ma ora non andate a chiedere soldi a mia moglie. Sempre ieri a Trani, in Puglia, Giuseppe Pignataro, 49 anni, è morto dopo essersi buttato dal balcone. Faceva l'imbianchino, non trovava un'occupazione stabile, soffriva per non riuscire a fornire un reddito degno alla propria famiglia. Il giorno prima un altro suicidio: un agente di commercio di 60 anni si è tagliato la gola nella sua casa vicino a Firenze. Il netto calo delle vendite aveva fortemente ridotto i suoi guadagni. È bastato per portarlo ad una profonda depressione e al suicidio. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il servizio registrato giovedì mattina. Dunque, Giuseppe C., muratore, 58 anni, di Ozzano Emilia. Un segnale terribile di disperazione che interpreta un momento drammatico. Oscar Giannino, giovedì 29 marzo a 9 in punto. Quando pochi minuti alla fine della nostra trasmissione l'agenzia ha iniziato a battere la notizia di Giuseppe C., piccolo imprenditore di 58 anni, che si è dato fuoco di fronte all'Agenzia delle Entrate di Bologna, ci siamo tutti interrogati, io per primo, se non esageriamo a volte con i toni. Eppure vi dirò la verità, no, non esageriamo con i toni, secondo me. Anzi, tentiamo di scuotere, tentiamo di raccontarvi il dramma che decine, sottolineo, non è una reiterazione retorica, è la realtà di questo paese. Decine e decine di migliaia di piccoli imprenditori avvertono intorno a sé di fronte a un debito fiscale e ad accertamenti, a pretese esecutive, a procedure che salgono nel mentre il mercato e gli ordini si restringono, nel mentre la difficoltà di pagamento da parte dei propri clienti si alza per tutti, nel mentre ovviamente bisogna pagare i collaboratori e pagare i contributi ai collaboratori. E quando si arriva ad atti pubblici drammatici come quello di ieri, cioè a darsi fuoco di fronte all'Agenzia delle Entrate, io mi chiedo se la vecchia idea che abbiamo lanciato, su cui torneremo con Bortolussi della CGA, di un fondo per gli imprenditori alle soglie, a un passo dalla disperazione. Il fondo non significa soldi pubblici per aziende che non devono stare in piedi, significa un servizio a disposizione di coloro che, persa la testa, pensando di non potercela fare, a quel punto chiudono una parete di piombo invalicabile tra sé, il mondo e i propri cari, e decidono di iniziare a pensare a gesti come quello di Giuseppe C. Punto e a capo. Carrello della spesa sempre più caro. A marzo i prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza dai consumatori sono aumentati dello 0,6% rispetto a febbraio e del 4,6% su base annua. In Italia si allarga la forbice fra salari e prezzi, con i primi che crescono meno dei secondi. A febbraio, in base ai dati dell'Istat, il divario fra aumento delle retribuzioni e inflazione ha toccato una differenza dell'1,9%, eguagliando la distanza già raggiunta a dicembre, la più alta mai registrata dall'agosto del 1995. Su base mensile, a febbraio le retribuzioni sono rimaste sostanzialmente ferme, mentre hanno registrato un incremento che non ha superato l'1,9%. 1,4% su base annua, il dato peggiore dal marzo 1999, rileva l'Istituto di Statistica. Nel mese di marzo l'inflazione è rimasta invece stabile al 3,3%, ma i prezzi dei prodotti acquistati maggiormente dai consumatori, quelli del cosiddetto carrello della spesa, sono aumentati dello 0,6% rispetto a febbraio e del 4,6% su base annua. A registrare i rincari più marcati sono stati zucchero e caffè, con incrementi superiori al 12% e sigarette più 8,8%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Lettera da Pechino di Mario Monti, ieri mattina sulla prima pagina del Corriere della Sera. Dal lontano Oriente, il Premier naviga le acque agitate dalla e della riforma del mercato del lavoro, smentisce la lettura giornalistica della conferenza di Tokyo, dice anzi le forze politiche italiane si dimostrano vitali, capaci di guardare all'interesse del paese. Insomma, un messaggio che ha tutto il sapore di un ramoscello d'ulivo pre-pasquale, ma sentiamo il punto su questo aspetto centrale della vita politica italiana nel servizio. Di tutta la riforma i commenti piovono solo sull'articolo 18. Ne parla Monti nel suo viaggio asiatico, spingendo sul fatto che c'è attesa all'estero per l'esito del provvedimento. Ne parla il ministro Fornero, che ha messo la sua firma e la sua faccia su questa riforma, adoperandosi in una spiegazione continua del testo e delle intenzioni del governo. Nessuno vuole dare licenza di licenziare, afferma la professoressa, ospite di Radio Anch'io. Vorremmo dare la possibilità ai piccoli di modulare i numeri in relazione all'andamento economico. E poi ancora, non vogliamo spaccare il paese, possiamo sembrare freddi, ma ci mettiamo sensibilità. A metà discorso arriva anche la stoccata CISL e UIL. L'accordo al tavolo c'era, solo la CGIL era contraria. E comunque io, dice la Fornero, non ho mai pensato che un accordo senza la CGIL avrebbe avuto un impatto più forte sui mercati. Nel concreto ci pensa poi il quotidiano La Repubblica a spiegare quale potrebbe essere la modifica nel caso in cui dietro un licenziamento per motivi economici si nasconda una discriminazione. La decisione potrebbe spettare a un giudice, di fronte al quale si andrebbe in modo automatico. Basta discutere di ipotesi, dice il segretario del PD. Noi abbiamo detto la nostra, afferma Bersani. Ora aspettiamo i testi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sempre molto attivo anche il capo dello Stato. Dunque, sulla giornata di giovedì del presidente Napolitano, il servizio di Elisabetta Fiorito. Prima un monito contro la precarietà e lo sfruttamento dei giovani, poi una promessa alle forze di opposizione sul ricorso alla fiducia. È lunga la giornata di Giorgio Napolitano, che in mattinata attenta a una mediazione tra governo e forze sociali. Nell'attuale fase economica l'impegno delle istituzioni e dei sindacati, spiega il capo dello Stato, è contrastare la piaga della disoccupazione. Le giovani generazioni devono accedere al mercato del lavoro in modo che non siano penalizzate da ingiustificate precarietà o da forme inammissibili di sfruttamento. Nel pomeriggio il Presidente della Repubblica incontra i rappresentanti della Lega Nord e dell'IDV al Quirinale. Le forze d'opposizione si lamentano di un Parlamento esautorato tra decreti legge e fiducie. Napolitano risponde che eserciterà un vaglio rigoroso sull'emanazione di ulteriori provvedimenti d'urgenza e richiamerà il Governo sulla fiducia, che deve essere posta per il Quirinale solo in casi di giustificabile necessità. Il Capo dello Stato si impegna a tutelare quindi le prerogative del Parlamento e dopo questo allarme del Quirinale sarà sempre più difficile per Mario Monti ricorrere alla fiducia sulla riforma del mercato del lavoro e sulla modifica dell'articolo 18. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E il segretario CGIL Camusso parte proprio da questo punto. Dunque, sindacati, articolo 18, lavoro e vertenze aperte nel servizio di Alessandra Schepisi. Tutto possiamo permetterci tranne che non avere il riconoscimento del ruolo legislativo del Parlamento, che non può essere in nessun modo condizionato. Siamo sereni perché il Parlamento è sovrano ed è lì che la riforma del mercato del lavoro potrà essere modificata, risponde così la leader della CGIL Camusso al Premier Monti. Fiducia nel Parlamento viene espressa anche dagli altri due confederali, ma Angeletti della UIL avverte: o si riesce a trovare un compromesso in Parlamento oppure tra un anno saremo ancora a parlare di articolo 18, mentre Bonanni della CISL rivendica comunque il lavoro fatto in sede di concertazione. Abbiamo fatto un buon lavoro, anzi abbiamo concertato, alla faccia di chi dice che la concertazione è finita. La concertazione non finisce mai. E intanto ieri a Roma è esplosa la rabbia di centinaia di lavoratori dell'Alcoa, multinazionale americana produttrice di alluminio, contro la chiusura dello stabilimento del Sulcis in Sardegna. Hanno bruciato schede elettorali e tricolori, lanciato petardi, scandito slogan, e a poco sono valse le rassicurazioni del ministro dello sviluppo economico Passer, che ha garantito il massimo impegno del governo. Ci ha dedicato 10 minuti del suo tempo, dopodiché se n'è andato. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Lunedì la rabbia dei lavoratori dell'Alcoa, martedì sera, tarda serata, di fatto i primi minuti di mercoledì, l'accordo che viene raggiunto al Ministero dello Sviluppo Economico su questa avvertenza. L'azienda dunque ha accettato di ritirare la procedura di mobilità e ha consentito a mantenere attivo lo stabilimento fino al 31 dicembre 2012. Il ministro Passera e il sottosegretario De Vincenti hanno seguito la trattativa fino alla chiusura dell'accordo. Da Roma a Madrid, a Barcellona, alla Spagna, insomma, giovedì sciopero generale. Anche in questo caso lavoro, occupazione al centro delle manifestazioni che seguono la presentazione da parte del governo Rajoy della manovra antideficit. La Spagna sembra ancora più divisa dopo una giornata di sciopero generale deciso dai grandi sindacati per contrastare la riforma del lavoro varata dal governo conservatore. Uno sciopero che ha bloccato quasi del tutto l'industria e il settore delle costruzioni del paese e che anche nei servizi, a cominciare dai trasporti, ha garantito solo i livelli essenziali. Alcuni scontri, soprattutto in Andalusia, ai cancelli delle fabbriche e le violenze isolate dei Black Bloc a Barcellona, non hanno compromesso le manifestazioni che si sono svolte quasi ovunque senza problemi. Per i sindacati è stato un grande successo, tanto che i loro leader hanno dato un mese di tempo al governo per modificare una riforma che dimezza gli indennizzi di licenziamento e permette alle imprese di licenziare in caso di difficoltà economiche, in un mercato, bene ricordarlo, nel quale non esiste la protezione dell'articolo 18. Il governo ha però risposto ribadendo che non intende modificare di una parola l'impianto di una legge già approvata dal Parlamento. E in una Spagna in recessione, con un tasso di disoccupazione al 23%, il premier Mariano Rajoy si appresta a presentare una manovra finanziaria di lacrime e sangue. Per rispettare gli accordi con l'Europa dovrà introdurre tasse e tagli alla spesa per almeno 35 miliardi di euro nel 2012. Luca Veronese, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Siviglia. E ieri la manovra è stata presentata, una manovra da oltre 27 miliardi di euro che fa leva su un blocco dei salari dei funzionari pubblici. Questa l'essenza, il cuore di questo provvedimento. Ancora sulla giornata di ieri, al termine di una settimana complessa anche sul fronte delle borse che hanno recepito comunque positivamente il via libera dei ministri dell'Eurozona all'anticipo del versamento delle quote nel fondo salva stati permanente, l'ESM, tutto questo per accelerare il processo che lo porterà a 800 miliardi di euro. E noi torniamo in Italia e torniamo in realtà all'inizio della settimana qui a Radio 24, ospite Matteo Renzi, sindaco di Firenze naturalmente, esponente del PD, parla dell'articolo 18, sentiamolo. Lei però ha detto che Bersani è stato saggio in questa occasione, cioè della riforma del mercato del lavoro, no? Non si registrava un complimento così a Bersani da parte di Renzi da un bel po' di tempo. Tatticamente saggio, ecco, non tattica, vorrei detto, ecco subito sminuiamo ha... il complimento, no, a Bersani. No, figuriamoci, fosse Bersani il problema. Bersani ha tenuto insieme tutto il Partito Democratico, quindi si è preoccupato comprensibilmente di fare il suo mestiere di segretario del partito. Beh, cioè... tutto proprio, ci sono D'Alema ha detto è un disastro, Fassina responsabile economico del PD. Vabbè, ha detto... però, insomma, Fassina l'avete inventato voi giornalisti, mi permetta, non è uno che credo che non abbia questa capacità di rappresentare chissà che cosa, chissà chi. Il problema è molto semplice, lì c'è un dibattito costante sull'articolo 18 e Bersani ha fatto il segretario del partito, cioè li ha messi tutti insieme dando la stessa linea. Io continuo a pensare che dell'articolo, personalmente, poi sarò sbrigativo, sarò superficiale, a me dell'articolo 18, utilizzando un tecnicismo giuridico, non me ne può fregare di meno, nel senso che mi piacerebbe che il mio partito, oltre che a essere unito praticamente, raccontasse che idea ha per il futuro. In altri termini, l'articolo 18 è una norma di una legge del 1970. Bene, bravi, bis. Adesso vogliamo parlare dell'Italia del 2020, del 2030. È questo che serve per un partito, non difendere le posizioni di 50 anni fa, ma ragionare della visione da qui ai prossimi 20 anni. Questo è quello che serve al PD. Punto e a capo. Bentornati su Radio 24 con Punto e a Capo, il nostro appuntamento del sabato con la settimana raccontata alla radio. E da raccontare sicuramente di questa settimana c'è anche un incontro, un cosiddetto vertice ABC, dunque Alfano, Bersani, Casini, un vertice che ha toccato, pare anche in maniera significativa e magari propedeutica a sviluppi importanti, il tema della riforma elettorale, anche un tocco di riforma costituzionale. Lo sentiamo proprio dall'intervista, in questa intervista a Pierluigi Bersani, realizzata da Elisabetta Fiorito. Al vertice è parlato di riforme costituzionali, elettorali. Come vedrete è uscito un comunicato congiunto, questo è già un fatto, mi pare, molto importante. Ci sono dei paletti, la volontà di proseguire diciamo in parallelo con riforme, alcune riforme costituzionali e riforme della legge elettorale. Come è noto, il PD insiste moltissimo per la legge elettorale perché la riteniamo assolutamente prioritaria e dirimente. Anche lì si sono condivisi dei paletti, c'è qualcosa da perfezionare, probabilmente ci si rivedrà anche la prossima settimana. Mi pare che il processo, diciamo, sia avviato positivamente. Ma io credo che ci si mette rapidamente, certamente per la legge elettorale, se ci si mette a lavorare seriamente anche per qualche aspetto di riforma costituzionale. Bisogna però cominciare con un percorso sufficientemente condiviso, si sta lavorando per questo. Ma che tipo di legge elettorale avete deciso? Adesso vedete, ci sono tutti i paletti, è una legge elettorale che deve garantire prima di tutto la possibilità dei cittadini di scegliersi parlamentari, questa è la prima cosa su cui è assolutamente inderogabile. Dopodiché ci sono in quella legge dei meccanismi sia di soglia, sia di governabilità, sia di necessità di indicare l'indirizzo di governo, oltre che scegliere il parlamentare. Ci sono, diciamo, dei meccanismi di riforma che dovrebbero garantire un bipolarismo più efficiente, più umano, ecco, rispetto a quello che abbiamo visto qui. Il lavoro ne avete parlato? No, non abbiamo parlato del lavoro. Paolo Panceri ci fa il punto sulle novità condivise in questa intervista, di fatto nel seguito di questa intervista che, ricordo, è stata realizzata mercoledì. Calano i parlamentari, che saranno anche più giovani. I deputati saranno 508 contro i 630 attuali. Sarà eleggibile chi ha compiuto 21 anni, mentre i senatori scendono a 254 dai 315 di oggi. E a Palazzo Madama sarà eleggibile chi ha compiuto 35 anni contro i 40 previsti ora. Il Premier avrà più poteri, mentre per l'attività dell'esecutivo ci sarà una corsia preferenziale. In particolare, il Presidente del Consiglio potrà proporre al capo dello Stato nomina e revoca dei ministri. E arriva anche la fiducia costruttiva. La mozione dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera e dovrà contenere l'indicazione del nuovo Premier. Infine si supera il bicameralismo perfetto attuale. I disegni di legge verranno presentati al Presidente di una delle Camere. Montecitorio si occuperà in particolare delle materie contenute nel comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione, cioè la potestà legislativa esclusiva dello Stato, mentre al Senato toccherà tutto ciò che riguarda il comma terzo dell'articolo 117, quello che rientra nella potestà legislativa concorrente, cioè dove lo Stato fissa soltanto i principi generali. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Mentre sul piano elettorale il presidente degli Stati Uniti Barack Obama resta in netto vantaggio rispetto agli avversari repubblicani, sul fronte economico la sua politica è molto criticata. Soltanto il 28% degli americani, secondo un sondaggio dell'emittente CNBC, afferma di stare meglio adesso rispetto a 4 anni fa. E tra le critiche, anzi tra le richieste proprio di intervento da parte di ben 26 degli stati della federazione, dunque della confederazione americana, dunque 26 hanno presentato ricorso contro la riforma sanitaria di Barack Obama perché la ritengono incostituzionale e vanno dunque ad attaccare uno dei capisaldi della politica del presidente. Sentiamo il racconto a cura di Mario Platero. You make out of the Constitution something that it was never meant to be. And it's all done by a Supreme Court, which is probably of our political institutions the one least capable of understanding what the current society really wants. Si è chiusa ieri l'audizione in Corte Suprema relativa alla costituzionalità del progetto di riforma sanitaria di Barack Obama. Avete sentito la voce di Antonin Scalia, uno dei 9 giudici della Corte Suprema, uno, devo dire, dei più aggressivi, almeno in apparenza, contro il progetto di legge e chiaramente favorevole alla richiesta dei 26 stati che hanno fatto causa al governo americano, dicendo appunto che la riforma di Obama è incostituzionale. Nel primo giorno si doveva verificare che in effetti si potesse fare un processo di questo genere, perché per via di una legge del 1867 che diceva che se si tratta di una tassa il ricorso potrà essere effettuato solo dopo che la tassa è stata pagata, e in questo caso la legge non entra in vigore fino al 2014, e quindi addirittura si sarebbe parlato del 2015. Però Antonin Scalia, Roberts, il presidente della Corte Suprema, il Chief Justice della Corte Suprema, Sam Alito, un altro giudice italoamericano, hanno attaccato questa idea, dicendo che in realtà non era una tassa, perché in tutto il dibattito relativo al progetto di legge e poi formalmente nel progetto di legge si parlava di multa nel caso che l'obbligo della sottoscrizione della polizza di assicurazione non fosse stato rispettato. Dunque non tassa. Quindi il primo punto ha visto i giudici conservatori contro. Il secondo punto ieri era il punto centrale, in cui si diceva se in effetti il governo aveva l'autorità per poter imporre alla gente l'acquisto di una polizza di assicurazione sanitaria. E devo dire, di nuovo, Antonin Scalia, Roberts e Sam Alito sono stati molto molto aggressivi, e il più divertente, devo dire, spesso lo è, intelligentissimo Antonin Scalia, ha provocato gli avvocati dell'amministrazione dicendo: ma insomma, allora la prossima volta voi verrete fuori con una legge che ci obbliga a comprare i broccoli, che ci obbliga a comprare la pasta. Si è capito che anche su questo punto i giudici conservatori non avevano dubbi: forse non era davvero costituzionale. Terzo punto dibattuto ieri: se per caso si dice che in effetti quella richiesta, quell'obbligo imposto dall'amministrazione non è costituzionale, che succede dell'insieme del progetto di legge? Beh, la spiegazione che ha dato ieri di nuovo Scalia è che non ci sono dubbi. Se manca il cuore di un progetto di legge, il progetto di legge che ci sta a fare? Decadrà anche lui. Ecco, la risposta che abbiamo avuto alla fine di questi tre giorni, la sentenza l'avremo poi a giugno, ma già oggi più o meno tutti si sono convinti che i giudici conservatori potrebbero avere la maggioranza dei 5 voti contro i 4 più liberal per poter bocciare, bloccare, smantellare il progetto di riforma sanitaria di Barack Obama. Da Washington, raccontata da Mario Platero, al Cairo, Al-Azhar, il più importante centro sunnita della capitale egiziana, ha annunciato la decisione di ritirare il suo rappresentante dall'Assemblea Costituente, perché si definisce scarsamente rappresentato proprio in quella commissione, in quell'organizzazione. Intanto, in settimana, il presidente del Parlamento egiziano, esponente di punta dei Fratelli Musulmani, Saad El-Khatatni, è stato eletto alla presidenza dell'Assemblea Costituente. Un po' come l'asso piglia tutto, i Fratelli Musulmani, che nel mondo arabo non sono solo un partito, ma anche un movimento, una rete sociale, sono arrivati anche al vertice dell'Assemblea Costituente egiziana. Alla direzione dell'organismo è stato infatti eletto Saad Al-Khatatni, che attualmente è già presidente della Camera egiziana. Valentina Colombo, docente all'Università Europea di Roma. È segretario generale del partito dei Fratelli Musulmani. È un personaggio anche che, viste le sue prime mosse in seno al Parlamento egiziano, viene anche considerato un moderato. Ha detto: un conto è l'operato politico, un conto è la religione, se volete andare a pregare andate in moschea. Ma nonostante questo, Khatatni non ha goduto di ampio consenso. I delegati dei partiti laici hanno addirittura abbandonato i lavori durante l'elezione, e anche la Corte Costituzionale ha deciso di ritirare il proprio rappresentante in commissione. E così la sua elezione ha riacutizzato la sensazione di parte della società egiziana, quella laica e copta per esempio, di venire via via defraudati della vittoria guadagnata tutti insieme un anno fa con la cacciata di Mubarak. In ambito egiziano ci sono tantissime personalità straordinarie che però non sono riuscite a coalizzarsi, a unirsi contro l'estremismo islamico, e ovviamente scalzare i movimenti islamici sarà ben difficile, richiederà da parte loro, ma non solo, ma anche da parte nostra dell'Occidente, più voglia di investire su di loro. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Benedetto XVI di ritorno in Italia al termine dei 6 giorni di visita tra Messico e Cuba. Questo accadeva giovedì mattina, mercoledì 28 la tappa a L'Avana. Più spazio alla libertà religiosa e della Chiesa, no ad un embargo che pesa negativamente sulla popolazione, basta con le posizioni inamovibili e i punti di vista unilaterali. Benedetto XVI lascia Cuba con queste esortazioni, auspicando un reale cambiamento di rotta. Con Fidel Castro l'incontro più atteso, mezz'ora di colloquio con scambio di battute sull'età. Come fa a svolgere ancora il suo servizio? Ha chiesto il coetaneo Fidel, e Ratzinger, sgombrando il campo dalle voci di sue possibili dimissioni, ha risposto: sono anziano, ma riesco ancora a svolgere il mio dovere. Il leader Massimo ha interrogato il Papa sulla liturgia cattolica, si è rallegrato per le beatificazioni di Madre Teresa e Wojtyła, ha chiesto al pontefice consigli sulla lettura. Benedetto XVI archivia così il suo 23° viaggio all'estero, un test importante per un pontificato che appare lungi dall'essere al capolinea. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Licenziato da Mediaset dopo 20 anni, di fatto alla guida del TG4, con la partenza di Emilio Fede a Palazzo dei Cigni si chiude un'era. A passare per uno spallone non ci sta. Emilio Fede respinge le accuse e nega di aver tentato di trasferire denaro in Svizzera. Secondo quanto rivelato da alcuni quotidiani, lo scorso dicembre il direttore del TG4 si sarebbe presentato nella filiale di una banca a Lugano chiedendo di depositare ben 2,5 milioni di euro in contanti. Ritenendoli forse di provenienza dubbia, un funzionario dell'istituto di credito si sarebbe però rifiutato di accettarli e avrebbe denunciato la cosa alle autorità di controllo. Per Fede però la sua denuncia sarebbe totalmente inventata. Io non sono mai andato in una banca svizzera, a parte l'episodio vecchio, stravecchio, quello di Lemora, mai andato lì. Non c'è una sola virgola vera in tutta questa storia. Esiste evidentemente una organizzazione, una strategia per colpirmi moralmente e professionalmente. Ricevuta la segnalazione, l'Agenzia delle Entrate ha comunque chiesto alla Guardia di Finanza di indagare sul caso. Anche la Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo, al momento contro ignoti. L'ipotesi di reato è quella di riciclaggio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Punto e a capo. Da un capo all'altro della settimana, lunedì a Essere e Benessere, Nicoletta Carbone ha avuto tra gli ospiti Francesca Dragotto, ricercatore nel settore glottologia e linguistica all'Università di Roma Tor Vergata, per parlare di come plasmiamo la lingua, le idee a nostro vantaggio e di come i meccanismi di sostituzione e scivolamento ci permettano anche di ammortizzare magari l'effetto di una brutta figura. Sentiamo. Sono tornata dalle vacanze e da domani riprendo il solito tram tram. Non potete avere la botte piena e la moglie vuota. Dal libro di Stefano Bartezzaghi Non ho più la squallida idea, una raccolta di strafalcioni, o meglio di malapropismi. In linea con noi abbiamo la dottoressa Francesca Dragotto, ricercatore nel settore glottologia e linguistica, Università di Roma Tor Vergata, alla facoltà di lettere e filosofia. Buongiorno dottoressa, professoressa. Buongiorno, uguale, va bene anche Francesca, buongiorno. Buongiorno a lei. Come possiamo leggere queste frasi un po' strampalate che ci strappano sicuramente una risata? Sono errori? Per alcune è più facile individuare delle attenuanti, perché insomma, posto che lo slittamento c'è stato, quindi che si tratta di deviazioni rispetto alla norma, ce ne sono alcune, le chiamerei proprio di un primo tipo, i malapropismi veri e propri, a cui ricondurrei: ho dormito all'agghiaccio, sì. Mi sono sbagliato, ho preso un lapis, che in qualche modo possiamo giustificare. Questo non significa che ne possiamo sancire l'uso, perché ho dormito all'agghiaccio rispetto a ho dormito all'addiaccio, sì. La tolleranza, o perlomeno la comprensibilità di quest'uso, è legata al fatto che addiaccio, un latinismo da addiacere, dormire presso, lo si ritrova soltanto in questa espressione, che viene utilizzata in riferimento al gregge e particolarmente precisamente in riferimento a quello spazio per lo più recintato al cui interno si ricovera il gregge per la notte. Sì. Ora, il basso rendimento d'uso, ovvero il fatto che appunto si tratti di un'espressione che è cristallizzata, quindi addiaccio ritorna soltanto in quell'espressione. Quell'espressione non ha un'altissima circolazione tra i parlanti. avanti, proprio perché essendo un'espressione fissa è difficile, logico, certo, trovare modo di utilizzarla. Spinge alla sostituzione del meno facile col più facile. Quindi il parlante cosa fa? Attinge alle proprie conoscenze linguistiche e va a cercare la parola che dal punto di vista dei suoni, dal punto di vista fonico, appare più aderente, appare più somigliante, e quindi va a sostituire il meno atteso con il più atteso. Punto e a capo. Settimana di quarti di Champions con le grandi che di fatto si affermano e con una sfida tra grandi come quella di Milano, tra Milan e Barcellona, che si è fermata sullo 0-0, rimandando dunque l'esito al ritorno in terra catalana. Aspettando Barça-Milan, l'Inter osserva e cambia ancora una volta allenatore, si affida a Stramaccioni, 36 anni, sentiamo. Idee chiare, sguardo sicuro, giusto mix di audacia e prudenza. Davanti a taccuini, microfoni e telecamere, Andrea Stramaccioni supera l'esame. Certo, ammette che durante il primo allenamento anche i big e i senatori nerazzurri gli hanno dato del lei, ma l'impressione è che il 36enne romano, fresco vincitore della Baby Champions, che incassa anche i complimenti e gli auguri di Balotelli ieri in visita ad Appiano, abbia le carte in regola per giocarsela questa sfida. Ho la certezza del mio lavoro, delle mie idee, con umiltà ma con sicurezza. Secondo me l'entusiasmo è a mille, la paura di bruciarsi, cioè, a mio avviso non c'è. Moratti lo benedice e regola intanto i conti col passato. Le colpe del fallimento stagionale per il presidente vanno a Gasperini. Ranieri si è comportato da signore. Per il futuro piacciono Bielsa, Montella e tanti altri. E Stramaccioni è in corso anche lui se arriveranno i risultati. A cominciare da domenica. A San Siro arriva il Genoa. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. My parents out there in the fields, in the countryside. Saba Anglan, artista italo-somala, testimonial della campagna internazionale Stand Up for African Mothers, la nostra ospite questa sera alle 19.30, 30 minuti in cronaca. Parleremo con lei dunque di Africa orientale, di una campagna in favore delle donne e del parto, dell'assistenza al parto in quella grande regione dell'Africa orientale che va dalla Somalia al Kenya. Punto e a capo. E ora il cinema con le uscite del weekend, cominciando da Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordano, il film che racconta naturalmente la strage di Piazza Fontana, tra polemiche, interrogativi, insomma discussioni come non può che essere con un tema così delicato. Il regista dice: mi interessano le reazioni del pubblico, di chi ha vissuto quella storia. Le reazioni in questo film sono tantissime, magari non verbalizzate, non scritte sui giornali, e che poi innescano necessariamente delle polemiche in cui non voglio entrare assolutamente, ma quindi le reazioni come spettatori molto commosse, partecipi ovviamente chi ha avuto a che fare con questa tragedia, ma anche molto commosse partecipi in ragazzi giovanissimi che non ne sapevano niente, ne sapevano poco per sentito dire. Questo tra le segnalazioni del fine settimana a cura di Marta Cagnola, che ci porta anche Christian De Sica, interprete di Buona giornata dei fratelli Vanzina. La cosa che mi ha impressionato di più è che mi ricorda tantissimo i film di Steno, il papà di Carlo Enrico, perché ha questo modo di raccontare un po' fanè, ma che a me piace moltissimo. Questo ruolo che, diciamo, è una macchietta, nel senso buono della parola, perché il principe Ascanio Cavallini, che per vivere si affitta il suo palazzo principesco, un principe con due papi in famiglia, che però per mangiare poi va a inaugurare anche i negozi dei cessi, facendosi fotografare coi bidè e le tazze come se fossero dei trofei di caccia. C'è anche lui, come c'è il politico, come c'è il tifoso, come c'è il cornuto, come c'è l'avvocato, insomma, gli italiani raccontati in chiave di commedia, in chiave di farsa, in chiave di posciata, ci sono un po' tutti i generi. Un film che riporta al cinema dopo anni anche Lino Banfi. Eh sì, sentivo anch'io una specie di mancanza, come si dice, la scimmia, dicono quelli poveri ragazzi che usano la droga, di quando non ce l'abbiamo ci sentiamo come delle scimmie in gabbia. E io sentivo questo bisogno di ritornare al cinema, perché la terza generazione che io ho abbracciato con il medico in famiglia e con altri personaggi di fiction non aveva mai visto i film miei. I loro papà, i loro nonni gliel'hanno fatti vedere, quindi hanno visto l'altro Banfi, e molti mi dicevano: ma quando torni a fare quelle cose, porca puttana, spezzo l'osso. Qui si prestava bene il personaggio, un senatore molto sanguigno, molto moderno, attuale con i tempi, truffaldino fra l'altro, e quindi io dico: qui lo posso fare. E con il ritorno di Lino Banfi chiudiamo questa puntata di Punto e a Capo. Pietro Lacorte in regia, Gigi Donelli al microfono vi salutano e vi augurano un ottimo fine settimana. A presto.